siamo insieme a Graziano Uliani, fondatore e direttore artistico di Porretta Soul Festival. Intanto grazie e buongiorno. Grazie a voi. Cosa propone la 34esima edizione del festival? Beh, diciamo, dopo due anni quasi di assenza, perché abbiamo fatto l'edizione invernale, torniamo in piena forma a fare l'edizione estiva con un cast di assoluto livello, perché ormai abbiamo abituato talmente bene il nostro pubblico che non possiamo deluderli. Quindi avremo una house band potenziata, perché sono 11 elementi. Tra l'altro il tastierista, ed è una notizia dell'ultima ora, sarà quello originale dei Commitments, del film tanto amato, 14 milioni di dischi venduti. Questo, diciamo, è il tastierista che non appariva nel film perché fu sostituito da un attore, però è il vero musicista. Tante stelle, da Curtis Salgado, ispiratore dei Blues Brothers. Proprio ieri sera qui avevamo John Landis, il regista di Blues Brothers, e tra l'altro Curtis Salgado è quello che ha ispirato sia John Landis che John Belushi per fare i caratteri di Blues Brothers. Abbiamo Terry O'Badi, Nona Brown, due personaggi da Memphis assolutamente incredibili, che sono Chick Rogers, una cantante che ormai abbiamo visto tante volte a Porretta, Larry Springsteen, che arriva per la prima volta invece a Porretta, Ural Thomas. Sono veramente tanti. Tra l'altro partiremo il 21 con una serata dedicata a James Brown, con alcuni elementi che hanno caratterizzato la vita di James Brown, come la Martha High, la corista che ha lavorato 35 anni con lui, Fred Wesley, che è stato direttore musicale, Leon Bill, e poi proseguiamo con le altre serate. Avremo concerti gratuiti dalle 11 del mattino alle 7 di sera ogni giorno, avremo lo street food, avremo il gospel in chiesa. Insomma, le opportunità sono veramente tante. Questo festival è stato fondato da lei nell'88, ormai 34 anni fa. Come si è evoluto in questi anni? È partito in maniera anche abbastanza casuale, perché io ero un appassionato di musica soul, ho fatto una prima edizione e dopo, a metà della prima edizione, sarei voluto scappare via perché erano troppe le preoccupazioni. Poi fortunatamente si diede la mano Zucchero all'inizio e venne gratuitamente assieme a Rufus Thomas e Memphis Horns. E poi il festival un pochino alla volta si è fatto conoscere un po' in tutto il mondo. È un festival strano perché sono artisti che non sono commercialmente dei grandissimi nomi, però sono nomi qualitativi, per cui la gente ormai viene a scatola chiusa. Ma quindi dal 21 al 24 luglio ci può dare qualche informazione riguardo prenotazione e biglietti? Per quanto riguarda i biglietti, si possono trovare su vivaticket.it. Vivaticket oltretutto c'ha tantissimi punti vendita. Porretta, ha un pochino di problemi adesso come capienza alberghiera, perché gli alberghi sono tutti pieni, però nei dintorni c'è la possibilità di trovare camere in affitto, non ci sono problemi. Insomma, è chiaro che con una calura come c'è in questi giorni in città, una fuga a Porretta non può che far bene. Esatto, stavo per menzionare una fuga a Bologna anche, ma forse si sta meglio a Porretta attualmente. Un'altra cosa, esatto. Tanto di sera si sta veramente bene. Benissimo, grazie ancora, grazie a Nuliani, buon festival. Grazie.